come comportarsi riguardo al cibo. Attenendoci allo scopo che ci siamo proposti, tracceremo ora per sommi capi un abbozzo di come debba essere in ogni circostanza della vita colui che si chiama cristiano. Faremo ciò raccogliendo dalle scritture tutto ciò che concerne l'aspetto pratico, cioè utile alla vita quotidiana, della divina pedagogia. Cominceremo dunque da noi stessi e dal modo in cui dobbiamo comportarci. Cercando di dare al nostro trattato una giusta proporzione tra le parti, diremo innanzitutto in che modo ciascuno di noi debba relazionarsi con il proprio corpo, o meglio, come debba governarlo. Una volta infatti che a partire dalle cose esteriori, e specialmente dalla condotta del corpo, il Logos ci avrà portato a riflettere, e avremo appreso diligentemente ad osservare ciò che avviene nell'uomo secondo natura, saremo capaci di non preoccuparci per le cose esteriori e di purificare invece l'occhio dell'anima, che è la caratteristica dell'uomo, rendendo pura e casta anche la stessa carne. Invero, colui che si è purificato e liberato da quelle cose per le quali è ancora polvere, quale altro mezzo più efficace avrà che se stesso per camminare sul sentiero che porta alla conoscenza di Dio? Contro il lusso nel cibo. Ora, gli altri uomini vivono per mangiare, proprio come gli animali irrazionali senza logos, per i quali la vita non è altro che un ventre. A noi invece il pedagogo prescrive di mangiare per vivere. Il nostro lavoro infatti non consiste nel mangiare e il nostro fine non è il piacere. Il cibo ci è concesso a motivo del nostro soggiorno quaggiù, soggiorno che la pedagogia del Logos sta conducendo verso l'incorruttibilità. Il cibo deve essere semplice e senza ricercatezza, ad immagine della verità. Adatto a noi, bambini semplici e senza ricercatezza, utile al vivere, non al godere. Infatti, giacché questa nostra vita si poggia su due fattori, la salute e la robustezza, il cibo a queste più idoneo è certamente quello che ci si procura facilmente, ben digeribile e leggero per il corpo. Esso favorisce la crescita, la salute e un'equilibrata robustezza. Non quella robustezza senza misura, dannosa e infelice, che è propria degli atleti, a causa della loro alimentazione forzata. Sono da respingere assolutamente le variegate qualità di cibi, che generano molti e diversi danni, come l'indisposizione del corpo e il rivolgimento di stomaco. E questo perché il gusto naturale viene adulterato tramite un'arte miserabile e diabolica, quella culinaria, e dalla vana abilità nel cuocere e friggere. Si osa chiamare nutrimento, trofe, la frequentazione di queste mollezze, trife, che conducono a piaceri dannosi. Antifane, il medico di Delo, diceva che una delle cause della malattia è l'eccessiva varietà di vivande. Infatti, coloro a cui la verità non piace e che per la loro multiforme vanagloria ritengono esecrabile un'alimentazione moderata, si procacciano cibi persino da oltremare. Io sento pietà per questa loro malattia. Essi invece non si vergognano di inneggiare alle loro passioni di gola. Vanno a procacciarsi le murene dello stretto di Sicilia, le anguille del meandro, i capretti di Melo, i muggini dello Sciato, i crostacei del Capofaro, le ostriche di Abido e non tralasciano le acciughe di Lipari nelle rape di Mantinea, né le bietole di Ascra. Ricercano le conchiglie di Metimma, le sogliole dell'Attica, i tordi di Daphne e i fichi neri come rondini, per i quali il miserabile persiano fece vela verso la Grecia con 5 milioni di uomini. Comprano poi i fagiani di Fasi, le pernici d'Egitto, i pavoni di Media. Trasformano i golosi tutti questi cibi con i loro intingoli e li guardano con avidità. Ciò che la terra nutre e nutre la profondità del mare e la distesa immensa dell'aria, tutto essi trascinano nel gorgo della loro voracità. Bramosi di avere sempre di più, si direbbe che questi uomini si affannino per radunare tutto l'universo a servizio della loro golosità. Deliziati ascoltano il friggio nelle padelle e consumano e sbriciolano tutta la loro vita intorno ai mortai, ai pestelli, e divorano tutto, come il fuoco che si attacca ovunque vi sia materia. Persino un cibo così semplice come il pane sono riusciti ad effeminarlo, privandolo della forza nutritiva del grano. Così, quello che sarebbe necessario nutrimento diventa voluttà biasimevole. Non ha limiti presso gli uomini la ghiottoneria, la quale si estende finanche alle fritture, ai dolci al miele e ai pasticcini. Essa inventa una moltitudine di leccornie e va a caccia di ogni genere di specialità. Mi sembra che un uomo di tal fatta non sia altro che una bocca. Dice la scrittura: non desiderare i cibi dei ricchi, essi infatti appartengono a una vita menzognera e turpe. Gli altri si attaccano alle vivande che dopo poco tempo finiscono nelle cloache. Noi invece, che aspiriamo al cibo celeste, dobbiamo saper dominare il ventre, che è inferiore al cielo, e ancor più tutte le cose che piacciono al ventre. Tutto ciò, infatti, Dio lo eliminerà, come dice l'Apostolo, condannando ovviamente la concupiscenza della gola. Frugalità e carità nelle agapi fraterne. I cibi sono per il ventre, dice, e da essi dipende questa vita che è completamente carnale e corrompente. Ma se alcuni osano impudentemente chiamare agapi certi pranzetti odoranti di arrosti e di salse, profanando così con i pentolini e i sughi la vera e santa agape, che è l'opera buona e salvifica del Logos, e bestemmiando il suo nome con le bibite, le mollezze e il fumo, allora essi sbagliano di gran lunga se credono di potersi acquistare con tali cenette la ricompensa promessa da Dio. Le riunioni che si fanno per divertirsi insieme le chiamiamo anche noi pranzi, cene o ricevimenti, come è logico. Ma il Signore non ha mai definito tali incontri agapi. Dice infatti: quando sarai invitato a un matrimonio, non sederti ai primi posti, ma quando sarai invitato, mettiti all'ultimo posto. Altre volte afferma: quando farai un pranzo o una cena, e ancora, quando darai un banchetto, invita i poveri. E questo è il motivo principale per cui dare banchetti. E ancora, un uomo diede un grande pranzo e invitò molte persone. Ma credo di sapere da dove sia venuto questo aggraziato modo di chiamare i banchetti agapi. Dalla golosità e dalla follia che è abituale nei banchetti, come dice il poeta comico. È vero, infatti, che la maggior parte delle cose, per i più, è in funzione dei banchetti. Evidentemente non hanno capito che Dio ha procurato cibo e bevande alla sua creatura, cioè all'uomo, per farlo vivere e non per farlo godere. Per natura, del resto, nemmeno il corpo trae vantaggio dalla sovrabbondanza dei cibi. Anzi, al contrario, coloro che hanno un'alimentazione estremamente frugale sono più robusti, più sani e più belli. Tali, ad esempio, sono i servi rispetto ai loro padroni e i contadini rispetto ai proprietari. E non solamente sono più vigorosi nel fisico, ma sono anche più lucidi nella mente, come è il caso dei filosofi, in confronto ai ricchi. Infatti, il loro intelletto non è stato offuscato dai cibi e non è stato accecato dal piacere dei sensi. L'agape dunque è propriamente un nutrimento celeste, un banchetto spirituale. Essa tutto accoglie, tutto sopporta, tutto spera. La carità, agape, non cade mai. Beato chi mangerà il pane nel regno di Dio. E certamente non vi è caduta peggiore di questa, che l'agape, che non cade mai, cada dall'alto dei cieli e sia gettata a terra dentro le salse. E credi che io possa chiamare pranzo ciò che secondo l'Apostolo verrà eliminato? Se darò via tutti i miei beni, ma non avrò la carità, agape, non sono nulla. Su questa carità si fonda tutta la legge e il Logos. Se amerai il Signore tuo Dio e il tuo prossimo, avrai una mensa celeste nei cieli. La mensa terrena di quaggiù, invece, è detta semplicemente pranzo, come risulta dalla scrittura. Il pranzo si fa in virtù della carità, ma il pranzo non è la carità. È solo segno di una benevolenza generosa tra i membri della comunità. Che il nostro bene non sia oggetto di biasimo, poiché il regno di Dio non è cibo e bevanda, dice l'Apostolo, esortando cioè a non considerare questo pasto terreno ed effimero il migliore. Il regno di Dio invece è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. È chi mangia questo pasto che acquista il migliore dei beni, ossia il regno di Dio, poiché già da qua giù frequenta la Santa Assemblea della Carità, cioè la Chiesa Celeste. La carità è un bene puro e degno di Dio e la sua azione consiste nel partecipare il bene agli altri. La carità, dice la Sapienza, è prendersi cura dell'educazione. La carità è osservanza delle sue leggi. Le gioie di quaggiù sono uno stimolo alla carità e ci abituano a passare dal nutrimento terreno a quello eterno. La carità dunque non è il pranzo in sé, tuttavia quest'ultimo deve fondarsi sulla carità. I tuoi figli che hai amato, dice la Scrittura, apprendano, o Signore, che non sono le diverse specie di frutti che nutrono l'uomo, ma è la tua parola che custodisce coloro che credono in te. Infatti, non di pane vivrà il giusto. Ancora contro la golosità. Il nostro pasto, dunque, sia parco e leggero, adatto a mantenerci svegli, non complicato da svariate portate. Neanche il pasto, infatti, deve essere escluso dal campo d'azioni della divina pedagogia. La carità è una buona nutrice che ci educa alla comunione fraterna e alla generosità e dispensa un prezioso viatico, il bastare a se stessi. La carità presiede a un'alimentazione equilibrata, pone i giusti limiti alla quantità del cibo e così dirige il corpo salutarmente, facendo parte anche agli altri del cibo. Il regime di vita, invece, che oltrepassa l'accontentarsi del necessario, fa male all'uomo, intorpidisce l'anima e rende il corpo debole e soggetto a malattie. Il piacere derivante dalle delizie del cibo ha nomi ripugnanti come bestemmie: golosità, ghiottoneria, voracità, insaziabilità, ingordigia. Nomi simili a questi sono anche mosche, donnole, cortigiani, lottatori. I golosi sono tribù selvaggia di parassiti che per la volontà del ventre gettano via in cambio la ragione, l'amicizia e la vita stessa. Come rettili a forma d'uomo strisciano sul ventre, ad immagine del padre loro, il rettile vorace. Già anticamente li si chiamava dissoluti, asotoi, e mi pare che con ciò si volesse alludere alla loro fine, considerandoli cioè insalvabili, asostoi, con la caduta della lettera S. Questi sono coloro che si affannano intorno alle pentole e alle minuziose e stolte preparazioni di manicaretti, individui di mente ristretta, persone terrene che inseguono una vita effimera come se non fossero destinati alla vita vera. Lo Spirito Santo stesso, per bocca di Isaia, ne parla come di miserabili, negando implicitamente ai loro banchetti il nome di agapi, poiché non sono secondo il Logos. Hanno fatto festeggiamenti, sgozzando vitelli e sacrificando pecore, dicendo: «Mangiamo e beviamo, che domani moriremo». E per far capire che egli considera peccaminose tali mollezze, aggiunge: «Non vi sarà perdonato questo vostro peccato fino alla morte». Sentenziando con ciò non una morte insensibile come perdono del peccato, ma la morte della salvezza come punizione per il peccato. Come dice la Sapienza, non rallegrarti per un piccolo piacere. La questione delle carni offerte agli idoli. Dobbiamo qui anche far menzione dei cosiddetti idolotiti, dai quali ci è stato raccomandato di astenerci. Sono cose sozze e abominevoli, a mio parere, queste carni sul cui sangue volteggiano le anime dei morti che risalgono dal profondo erebo. «Io non voglio», dice l'Apostolo, «che voi abbiate alcunché in comune con i demoni, poiché distinti sono i cibi di chi si salva e i cibi di chi si danna». Bisogna quindi astenersi dagli idolotiti non per paura, non vi è infatti in essi alcun potere contro di noi, bensì per orrore nei riguardi della nostra coscienza che è santa e per orrore dell'abominazione dei demoni a cui queste carni sono state consacrate, e ancora a motivo della fragilità di alcuni che vacillano nei loro giudizi verso quasi tutto, persone la cui coscienza è debole e quindi si contamina, ma non è certo un alimento che ci potrà raccomandare a Dio. Infatti, non ciò che entra rende impuro l'uomo, ma ciò che esce dalla sua bocca. Perciò l'uso naturale e materiale del cibo è di per sé indifferente. Non avremo di più se mangeremo, dice, né avremo di meno se non mangeremo. Purtuttavia non è conforme al Logos che partecipino alla mensa dei demoni coloro che sono stati stimati degni di comunicare al cibo divino e spirituale. Non abbiamo forse la possibilità, dice l'Apostolo, di mangiare, di bere e di prenderci delle donne. Tuttavia, dominando i piaceri, mettiamo un freno ai desideri. Badate che questa vostra libertà non divenga pietra d'inciampo per i deboli. Come comportarsi nei banchetti? È dunque necessario che noi non abusiamo dei doni del Padre, vivendo da dissoluti come il figlio ricco di cui parla il Vangelo, ma che ne usiamo dominandoli e non inchinandoci ad essi. Abbiamo infatti ricevuto la missione di regnare e di dominare, non di servire agli alimenti. È bello che noi, contemplando la verità, prendiamo parte al cibo divino di lassù e ci beiamo della visione insaziabile di colui che veramente è, gustando così il più stabile, solido e puro piacere. Questa è l'agape che dobbiamo accogliere, come ci mostra il nutrimento stesso di Cristo. Non è assolutamente ragionevole, né utile né umano che ci nutriamo alla maniera del bestiame che viene fatto ingrassare per metterlo a morte, che teniamo lo sguardo verso terra, noi che siamo tutti venuti dalla terra e che stiamo curvati sui tavoli inseguendo una vita golosa. In tal modo sotterriamo ciò che è buono e aderiamo a una vita senza futuro, compiacendoci soltanto del mangiare, per cui diventano più degni d'onore i cuochi che i contadini. Con ciò non vogliamo respingere gli incontri e le relazioni sociali, ma mostriamo diffidenza verso i rischi della convivenza sociale, che può essere occasione di rovina.